Io e Matteo, di Ernesto Granese, episodio numero 60, nel carcere di massima sicurezza di Cuneo, 28 agosto 1983, letto da Ugo Pestalozzi. Io e Rosalba eravamo in viaggio da circa 10 ore per raggiungere le carceri di Cuneo. Matteo si trovava in cella ormai da una settimana ed era in attesa di giudizio. Rischiava oltre 10 anni per favoreggiamento, rapina a mano armata e Dio solo sa cos'altro. Rosalba era particolarmente emozionata, poiché non vedeva Matteo da oltre 10 anni e non sapeva nulla del mondo torbido e infido in cui Matteo era da tempo invischiato. «Senti, parla tu con Matteo, io non saprei cosa dirgli», disse Rosalba un po' agitata. «D'accordo, non preoccuparti», replicai con calma. «Non credo che abbia voglia di parlare dei suoi guai. Vedrai, sarà felice di rivederti». «Ho letto i giornali», aggiunse Rosalba. «Matteo è davvero nei guai. Com'è finito così?» domandò con voce tremante. «È una lunga storia», replicai dopo un lungo sospiro. «Tutto è iniziato 3 anni fa, quando lavoravamo insieme in una cooperativa di Busto». Raccontai a Rosalba il resto della storia. In tarda mattinata raggiungemmo le carceri di sicurezza di Cuneo. Eravamo spossati dal lungo viaggio, ma ansiosi di rivedere Matteo. Quando lui entrò nel grande salone, adibito a parlatoio, quasi non lo riconoscemmo. Aveva una lunga barba e il viso sofferto, di uno che ne aveva passate tante. «Buongiorno! Che sorpresa!» esclamò Matteo commosso e agitato. «Rosalba, anche tu qui! Non avrei mai immaginato di rivederti!» «È un piacere incontrarti dopo così tanto tempo», disse Rosalba con un sorriso velato di tristezza. «Avrei tanto voluto abbracciarvi, ma come potete vedere non è possibile». «Purtroppo questo non è un carcere qualsiasi», spiegò Matteo. «Qui non è permesso alcun contatto fisico. Ma ditemi, come state? Come stanno i miei?» «Insomma, non proprio bene», replicai. «Siamo tutti in pena per te». «Dite ai miei che qui, tutto sommato, sto abbastanza bene», aggiunse Matteo accennando un sorriso. «Questo è un carcere duro, ma moderno. E poi, ve lo dico subito, io non ho ammazzato nessuno». «Proprio di questo volevo parlare. Si può sapere come sei finito nelle BR?» chiesi con una certa cautela. «Senti, ti voglio bene, ma non parliamo di queste cose», Matteo replicò con una punta di amarezza. «Proprio ieri ho avuto un lungo colloquio con il magistrato incaricato delle indagini e sono stato sottoposto ad un interrogatorio serrato». «Allora dimmi almeno se hai deciso di collaborare», insistetti. «Vedremo», disse Matteo scuotendo la testa. «È troppo presto per dirlo. Non ho nessuna voglia di tradire i miei compagni. E sai bene cosa fanno a chi collabora. Ricordi che fine ha fatto il fratello di Patrizio Peci?» «Sì, l'ho letto sui giornali», confermò Rosalba. «Ecco appunto», ribatté Matteo. «Qui dentro, se fai un passo falso, lo viene subito a sapere tutta l'organizzazione. Ne parliamo un'altra volta, vi scriverò. Ma dimmi, che ne è di tuo padre, Mauro?» «Sta abbastanza bene», risposi. «Sono tutti tornati a battipaglia, tranne noi. A volte penso che se fossimo rimasti giù, nulla di tutto questo sarebbe successo». «Può darsi», ammise Matteo con un sorriso amaro. «Ma la storia non si fa con i sé. Ho fatto le mie scelte, ora pago. Sono sereno». «E Francesca, la tua ragazza?» «Non so, non la vedo da tempo, credo sia finita», disse con un filo di voce. «Hai sempre voluto fare di testa tua, Matteo, ed eccoti qui, commentai quasi rimproverandolo. Basta così, tagliò corto. Non metterti anche tu a farmi la predica. Piuttosto, sei ancora nel PC? No, ho smesso di fare politica, risposi. Scelta saggia, disse con sarcasmo. Le ideologie sono trappole. Questo paese è sconfitto, così come la nostra causa. E voi del PC ci avete messo del vostro. Che vuoi dire? Domandai aggrottando la fronte. Sai bene a cosa alludo, replicò Matteo con freddezza. Sì, penso di sì, ma ormai sono fuori da quel mondo. Io e Rosalba abbiamo deciso di andarcene all'estero, spiegai. All'estero? Dove? Chiese Matteo incuriosito. A Brighton, in Inghilterra, risposi. Lo zio di Rosalba ha uno studio legale laggiù. Lei finirà gli studi e lavorerà con lui. Io imparerò l'inglese, insegnerò un po' di italiano. Mi manterrò con qualche lavoro. Insomma, mi arrangerò. Il futuro è incerto, ma sono ottimista. Già, rispose Matteo con un sorriso malinconico. Del domani non vi è mai certezza, diceva Lorenzo il Magnifico. Una cosa è certa, aggiunsi. Noi non ti abbandoneremo. Vero, Rosalba? Assolutamente no, confermò lei con voce ferma. Grazie, ragazzi. La vostra visita mi ha messo di buon umore, disse Matteo, allungando le mani ammanettate, cercando invano un contatto con le nostre. Tornate a trovarmi. Posso chiedervi una curiosità? Voi due siete insieme? Sì. Come l'hai capito? Domandai sorridendo. Sei sempre stato un molliccione, replicò Matteo ridendo. Vi faccio tanti auguri. Tornate presto e scrivetemi. Ci devi spiegare tante cose, aggiunsi. Lo farò, non temete, promise. Vi scriverò ogni giorno. Qui dentro non c'è molto altro da fare. Ora ci sono gli interrogatori e i processi. I miei compagni qui non mi mollano un secondo. È quasi come là fuori. C'è una specie di comando operativo che impartisce ordini e bisogna stare in campana. È difficile spiegare quello che succede qui dentro, ma ti prometto che ti scriverò. Lascia che passi ancora qualche settimana. Passarono ben 10 settimane prima che io ricevessi la prima lettera da Matteo. In essa lui raccontava le sue vicende, della sua vita in carcere, gli interrogatori, i processi, poi delle sue vicende prima dell'arresto, di come era passato da lotta continua alla clandestinità e alla lotta armata. Mi raccontò anche dei suoi rimpianti, dei suoi desideri, di quello che gli sarebbe piaciuto fare se fosse potuto tornare indietro. Mi parlò di Biumo, un magnifico, tranquillo paesino di campagna incastonato tra le colline di Sacromonte e il lago di Varese. Aggiunse che, se mai fosse uscito dal carcere prima di diventare vecchio, gli sarebbe piaciuto andare a vivere laggiù. A Battipaglia non voleva tornare. La vita nel nord Italia l'aveva cambiato a tal punto che ora non desiderava altro che starsene tranquillo e da solo, lontano da tutto e da tutti, a meditare sulle sue scelte e i suoi errori.